Ma quelli che bofonchiano quelle pseudo sigle per due di denari sono proprio dei pagliacci, ma non hanno niente da fare. Porca miseria, che lazzarunchi che giro. Hanno laura, barbum! Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. 7000 caffè li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te che aspetti me. E cara Deborah, forse non erano proprio 7000 i caffè della ausiliaria della sosta, però di sicuro sono stati caffè molto amari. Sicuramente ce n'era qualcuno di troppo e in ogni caso li prendeva, li andava a prendere, li andava a consumare al bar in orari che così erano un po' al centro di qualche sospetto di molti colleghi, perché sembra che nel medesimo orario in cui questa signora consumava il caffè al bar apponeva anche appunto le multe sulle auto in sosta irregolare. Diciamo che mancando di solito il dono dell'ubiquità all'ausiliario della sosta e all'ausiliare della sosta, risulta difficile contemporaneamente prendere il caffè e contestare una sosta fuori ordinanza. Comunque è andata male perché è una vicenda occorsa a una dipendente, ex dipendente di una società che svolgeva questo servizio per il comune di Mestre e il Lido di Venezia, e purtroppo è stata licenziata però perché questa irregolarità nello scrivere le multe, le contestazioni, le è costata il posto di lavoro. Ci sono state anche delle testimonianze di colleghi che hanno appunto segnalato come l'ausiliaria facesse delle lunghe soste al bar. Esatto, che delatori! E così, insomma, non è finita benissimo. Tra l'altro pare che la signora si sia giocata anche la carta delle pause caffè terapeutiche che sarebbero state utili per preesistenti patologie di cui aveva sofferto, però in sostanza... Però ecco, ci tocca dire a tutti, anche a noi stessi e agli ascoltatori, la Cassazione ha detto che la pausa caffè terapeutica anche no, grazie, insomma così hanno detto i giudici, quindi evitiamo di portare questo tipo di contestazioni. Senti, andiamo un po' a giustificare la bella fotografia che abbiamo fatto mettere a Marco Lombardo sui social network per anticipare il tema che affronteremo questa mattina. Ci siamo un po' vestiti da muratore, non siamo molto credibili, anche se sia a me che a te qualche lavoretto in casa ogni tanto piace farlo, ma diciamo non siamo proprio dei professionisti, ci piacerebbe. Cominciamo però ad essere dei veri professionisti dell'eco bonus, del super bonus 110%. È veramente il fisco per l'estate il 110%, cioè è la cosa più gettonata, più richiesta dai lettori del Davvero, Sole 24 Ore, dagli ascoltatori di Radio 24, più richiesta ai commercialisti e dai commercialisti, perché poi ovviamente sembra tutto molto chiaro fino a che non tocca farlo. Allora, oggi abbiamo scomodato due esperti di valore mondiale sulla materia, un collega del Sole 24 Ore e un esperto del Sole 24 Ore. Parleremo del 110%, del super bonus 110%. 800 24 0024 se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per mandare messaggi via SMS o WhatsApp. Li dico subito questi numeri, Deborah, perché sappiamo ormai che basta dire super bonus 110% o anche solo 110% e si affollano subito le domande, comprensibilmente, perché è uno sconto particolarmente ghiotto, anche se non è così semplice, così lineare da utilizzare, da attivare. Ne parliamo tra pochissimo. E tra l'altro ci sono delle dichiarazioni del ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli, rilasciate oggi alla stampa, in cui promette il super bonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie diventerà strutturale, un po' come sono diventati gli incentivi fiscali per la riqualificazione della casa in questi anni, dal 36% al 50% sono diventati incentivi sempre più generosi, ma più o meno generosi in ogni caso ormai sono sconti strutturali, e anche questo a quanto pare è destinato a diventarlo, per cui non mettetevi fretta se dovete fare un lavoro impegnativo e importante in casa. Sicuramente per quello che riguarda il condominio abbiamo tutta l'assemblea da seguire, da organizzare, con i tempi del Covid è tutto naturalmente più complicato, per cui forse anche per questa ragione il ministro Patuanelli ha deciso di fare questa promessa, perché ovviamente sono, come dicevo, lavori impegnativi dal punto di vista economico, onerosi, complicati dal punto di vista fiscale, per cui abbiamo necessità di tempo. E bene, fatto tutto questo preambolo, direi che è il caso di fare anche stamattina il giornale Radio del Risparmio. Ah, ma certamente. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Tra l'altro, visto che Patuanelli da tutto questo tempo, adesso i commercialisti possono fare con serenità anche il loro sciopero. Eh sì, diciamo che oggi è il giorno, l'ultimo giorno per la comunicazione di volersi avvalere dell'agitazione, dello sciopero da parte della categoria dei commercialisti. Allora, per chi si fosse persa questa notizia, i sindacati, quindi la DC, AIDC, la ANC, l'ANDOC, eccetera, e anche altri, anche dei sindacati dei ragionieri, e con diciamo l'avallo del Consiglio Nazionale, che ha condiviso le ragioni della protesta, hanno indetto uno sciopero per i commercialisti. Lo sciopero andrà dalle 24 del 14 settembre fino alle 24 del 22 di settembre. Sono state inviate dai sindacati le indicazioni operative per questa astensione dal lavoro, quindi bisogna comunicare ai clienti almeno 10 giorni prima l'astensione, prima che l'astensione inizi, e poi per quanto riguarda invece le udienze in commissione tributaria bisogna comunicare almeno 2 giorni prima. Tutte le indicazioni sono state appunto diffuse in questa giornata dai sindacati. Perché i commercialisti hanno deciso questa forma di protesta particolarmente dura? Perché non c'è stata la proroga al 30 settembre per i versamenti, e naturalmente anche per tutta una serie di altre questioni emerse dal punto di vista fiscale in questo periodo di pandemia, e quindi di decretazione anche d'urgenza, anche particolarmente affastellata e non sempre felice. Ecco che i commercialisti hanno voluto dare un segnale forte al governo e al legislatore perché la loro voce sia ascoltata quando si vanno a disporre delle innovazioni fiscali anche particolarmente importanti. C'è una banca che ha delle grane, caro Mauro, ancora una volta dobbiamo raccontare di un'altra banca che ha delle difficoltà e finisce con l'essere commissariata. Lo apprendiamo appunto dal Sole 24 Ore di questa mattina. Ho notato che però già da qualche giorno se ne stava scrivendo su molti siti e su molti blog, e sono andata a vedere anche sul sito della stessa banca. Era in amministrazione straordinaria dalla seconda metà di agosto, una banca che finisce commissariata per colpa dei pesanti effetti delle scommesse tra virgolette spericolate e quindi sfortunate dei suoi clienti trader online. È una domanda che ci facciamo, ma di fatto è questo il motivo per cui Invest Banca, che è una piccola banca del territorio di Empoli, che è specializzata in gestioni patrimoniali ed intermediazione immobiliare e offre i suoi servizi sia tramite le banche affiliate che direttamente alla clientela, appunto è finita questa banca nella bufera e quindi in commissariamento. Alcuni clienti nei mesi peggiori della crisi dei mercati legata alla pandemia, quindi parliamo di marzo-aprile, hanno accumulato perdite ingenti sulle trading online scommettendo su strumenti derivati, nello specifico opzioni sul Bund Future. E quindi ancora una volta dobbiamo raccomandarvi di non lasciarvi lusingare da promesse di rendimento nell'immediato molto generose, perché sono generalmente appunto delle operazioni spericolate che vi tocca fare e che generalmente si perdono. Addirittura per la banca tutto questo sarebbe costato quasi 20 milioni di euro di perdita, e siccome è una piccola banca naturalmente questa è una cifra importante sul bilancio, ed ecco com'è finita. Vedremo se ci toccherà parlarne di nuovo nei prossimi giorni per raccogliere, purtroppo speriamo di no, le testimonianze di qualche ascoltatore o risparmiatore o piccolo investitore che è rimasto vittima anche di questa situazione. Un'indicazione invece sulla puntata che abbiamo fatto mercoledì scorso, mercoledì con Aldo Bottini e con Valentina Melissa, abbiamo parlato a lungo di smart working. Era il mercoledì appunto dedicato al lavoro, come sempre tutti i mercoledì qui a Due di Denari. Perché vi parlo ancora di smart working? Perché ci si sta interrogando sull'utilizzo della malattia nel caso in cui ci sia una positività ma non sintomatica. Allora, a norma attuale, in questa condizione corrisponde a uno stato di malattia, quindi sicuramente il lavoratore non può lavorare perché è malato e quindi non può essere impiegato in attività lavorative. Però creandosi questo caso molto particolare, per cui in effetti una persona non ha assolutamente nulla ma è positiva e quindi deve aspettare, stando in isolamento, di negativizzarsi, ecco che ci si sta interrogando sulla possibilità di una modifica normativa che dia la possibilità, dia la facoltà, se il lavoratore lo ritiene, di poter comunque lavorare da casa, restando, quindi rispettando l'isolamento. Se ne sta parlando, non c'è ancora niente di definito, al momento, come vi ho detto, la norma è: se siete a casa perché siete stati trovati positivi, siete in malattia e quindi non dovete lavorare. Questa è la norma, vedremo se cambierà nei mesi a venire. Ne riferisce oggi il Corriere della Sera. Sentiamo adesso il nostro sportello di servizio. Dillo a due di denari. Io ho lavorato tanto nella mia vita, lavoro 60 anni, lavoro onesto e fatturo tutto così, metto via dei soldi. Lo Stato me li fa obbligatoriamente mettere via in conto corrente. Conto corrente non muovo niente, mettiamo, e niente, interessi praticamente zero. Se investo in titoli addirittura posso anche andare in negativo. Allora a questo punto, mi dispiace dirlo, se tu mi obblighi di metterli dentro il conto corrente e non mi dai niente nel conto corrente, io ho diritto che se vado in banca e voglio tirar fuori dalla banca 10.000 euro, non devo render conto a nessuno. Avete capito? Questa è la libertà. Io voglio solo questo: prendere i soldi fuori quando voglio, va bene, e di spenderli in cash, va bene, perché questo è un mio diritto e nessuno può togliermelo, neanche una legge fatta dallo Stato, va bene? E mi dispiace che voi su questa cosa non siate d'accordo, mi dispiace molto, perché questa è ledere la libertà del cittadino, va bene? Il cittadino ha diritto di spendere i soldi come cavolo vuole, sia chiaro. Allora, a parte il fatto che non è obbligatorio mettere il tuo denaro in banca, se tu hai anche 15 milioni di euro e te li vuoi tenere nel materasso, è una tua libertà. Fatto salvo questo principio, noi generalmente raccomandiamo prudenza, perché se viene un ladro in casa e per quella cifra lì ti ammazza anche, se li metti in banca magari, ecco, male che ti va, non te li investono bene, ma quella è la cifra che rimane. Primo punto. Secondo punto, allora, prelevando soldi dal proprio conto corrente non c'è alcun tipo di segnalazione di sorta, cioè le movimentazioni che sono sospette sono quelle per cui uno si presenta con grandi somme in contanti di cui si ignora la provenienza. Sono lì con un sacchetto della spesa e dentro ci sono, che so, 10.000 euro. Ecco, quella è una cosa per cui se mi presento in banca forse il cassiere dice: ma scusi, come mai? Naturalmente non se faccio un lavoro, che so, un negoziante che può essere lì con l'incasso della giornata, certo. Ma in questo caso vorrei tranquillizzare l'ascoltatore: se lui ha i soldi sul conto corrente, si presenta in banca e li preleva, questo non è assolutamente né vietato, ci mancherebbe altro, ma neanche sospetto, non è una operazione sospetta, può farlo con tranquillità. Secondo me dobbiamo tornarci su questo argomento, Mauro. Abbiamo parlato questa mattina, prima di iniziare la nostra diretta, di temi divisivi, questo lo è particolarmente, quindi contante o no, che cosa mi succede se faccio delle operazioni con il contante importanti, con la banca, se appunto arrivo con una cifra importante perché è stato il frutto del regalo del matrimonio. Ti ricordi quante volte questi temi sono usciti? E insomma, sul tema della tracciabilità anche di questo denaro, evidentemente è l'ora di ritornarci. Non oggi però. No, perché oggi invece cerchiamo di non far tirar fuori alcun contante, ma neanche alcun bonifico, perché parliamo del 110%. Sigla. Già stanno già chiamando, stanno già componendo compulsivamente l'800240024 per intervenire sul tema di oggi. Io faccio gli onori di casa perché abbiamo due signori oggi e poi naturalmente ti passo subito il testimone dell'argomento perché so che ti piace tantissimo. Peraltro dovremmo partire da una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate abbastanza recente, quindi siccome tu hai dei rapporti diretti con questa istituzione lascerò a te il testimone. Buongiorno a Giuseppe Latour del Sole 24 Ore, ciao Giuseppe, buongiorno. Ciao, buongiorno Deborah, buongiorno Mauro. Ho visto che hai già apprezzato la foto che abbiamo messo su Facebook, ti piacciamo in questa versione muratori, siamo credibili Mauro secondo te? Assolutamente imperdibili, preparatevi a fare grandi affari nei prossimi mesi. Sì, esatto. Luca De Stefani, commercialista esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, il grande esperto degli incentivi fiscali per le riqualificazioni edilizie. Buongiorno Luca e ben trovato e buona ripresa. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, caro Mauro, qual è il tema, l'ultima novità sull'argomento? Perché qua ce ne abbiamo una al giorno, peraltro. Allora, già oggi Giuseppe Latour su Sole 24 Ore spiega, attenzione, volete utilizzare il 110% nella sua massima espressione, cioè non pagare voi, ma trasferire il vostro credito, la vostra detrazione, super detrazione, trasferirla alla banca. Ecco, attenzione, ci vogliono almeno 24 passaggi. Ho riassunto brutalmente, Giuseppe, ma credo che questo poi sia il senso del tuo contributo di oggi su Norme e Tributi, sul Sole 24 Ore. Questo è il senso e direi che è anche un po' la sintesi di questa fase, perché è vero che nel mese di agosto il super bonus non è andato in vacanza e la sua disciplina è assolutamente completa, per cui è possibile iniziare a fare lavori, a programmare le operazioni, però è anche vero che ci troviamo davanti probabilmente al bonus fiscale dedicato alla casa più complicato che sia mai stato concepito, quindi se da un lato la disciplina è completa, dall'altro, come stiamo vedendo anche con le tante domande che ci arrivano, dobbiamo confrontarci con una serie di adempimenti molto molto complessi. Ecco, allora ci sono 24 passaggi burocratici tra cui il coinvolgimento dei tecnici e le asseverazioni necessarie e poi tutti gli stati di avanzamento lavori eccetera eccetera. De Stefani, l'importante è sostanzialmente che ci siano i cosiddetti interventi trainanti e che l'intervento che si va a disporre faccia fare all'immobile un salto di classe almeno doppio, cioè passi di categoria energetica, passi di due categorie energetiche. Già ci ha detto Giuseppe Latour, la normativa è compiuta, adesso naturalmente bisogna metterla a terra. È corretto questo riassunto? Che cosa ci mancherebbe, di cosa avremmo ancora bisogno, De Stefani? Diciamo che servirebbe la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi ministeriali. Ah, beh, passaggio da niente. Diciamo che il grosso è fatto, ecco, il 90% è stato fatto. Mancano solo due decreti ministeriali del Ministero dello Sviluppo Economico. Uno è quello dei requisiti tecnici, di cui abbiamo ampiamente conoscenza. In questi giorni abbiamo scritto diversi articoli sul Sole 24 Ore, però non è ancora ufficiale, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E questo decreto, oltre a quello delle asseverazioni, entra in vigore appunto il giorno successivo per tutti i lavori iniziati dal giorno successivo della sua pubblicazione in Gazzetta. Quindi chi inizia i lavori oggi applica le regole vecchie, quindi anche questo è un aspetto importante da tenere in considerazione. Però diciamo le regole ormai sono tutte scritte, appunto riassumendo velocemente bisogna appunto capire che ci sono questi tre interventi trainanti che trainano tutti gli altri, che sarebbero con delle percentuali più basse, dal certo. 50 al 65%, ma anche all'85%, vengono trainati insomma al 110%. Con il lavoro portante. Allora, io ne approfitto perché questo riepilogo che ha fatto il dottor De Stefani mi dà il destro per ricordare che sul sito del Sole 24 Ore potete trovare per gli abbonati, per chi si abbona all'edizione digitale, che però in questo momento ha anche delle condizioni particolarmente favorevoli. Ripeto, sul sito del Sole 24 Ore ci sono anche le guide, i fascicoli che abbiamo pubblicato nel corso del mese di agosto. Sono usciti due fascicoli particolarmente importanti, www.sole24ore.com, e poi da lì trovate tutto quello che può servire per fare il quadro del Superbonus. Senti, e adesso sì, è il momento della dura realtà, credo. Vedo, esatto, che sì, stai leggendo le molte, esatto, domande. Guarda, degli ascoltatori, prima di metterci nelle mani degli ascoltatori, oggi lo facciamo volentieri, diciamo che ci facciamo sostituire come conduttori molto volentieri da tutti gli amici che stanno chiamando al nostro numero verde. Volevo però un riepilogo della situazione da parte dei nostri due ospiti di questa mattina per capire come si è definitivamente risolta la questione dell'incapienza fiscale. Perché ci sono molti ascoltatori che ci stanno scrivendo e che ci raccontano di essere in questo momento a reddito zero e quindi a IRPEF zero, da quello che capisco, proprio brutalizzando la situazione, però sono nelle condizioni economiche evidentemente di mettere mano ad un lavoro importante per la casa. Quindi come potranno tecnicamente approfittare di questo vantaggio? Vado a Giuseppe o al fiscalista, cosa dici? Andiamo direttamente a De Stefani. Luca. Sì, la possibilità di questi contribuenti di ottenere il 110% c'è, ma non direttamente, appunto, non utilizzando questo credito d'imposta all'interno della propria dichiarazione di redditi, quindi all'interno della propria IRPEF, visto che appunto l'IRPEF non c'è, ma attraverso lo sconto in fattura da parte del fornitore, oppure la tecnica più preferita, a mio parere, è quella della cessione del credito sia al fornitore stesso che oppure alla banca, oppure ad altri soggetti. Mi sono dei dubbi per capire quali sono questi altri soggetti, vedremo l'agenzia di cosa ci dice, però comunque, ecco, alla banca sicuramente questo credito d'imposta del 110% può essere ceduto tramite una comunicazione da effettuare all'Agenzia delle Entrate in maniera anche abbastanza semplice. Questo significa che il lavoro non potrà essere fatto interamente con le risorse disponibili della persona che vuole fare il lavoro, significa che c'è il passaggio intermedio della richiesta di un prestito, però, perché la banca non è che, certo, ti dà questa possibilità, certo, certo, come dire, così, giusto perché fa un po' di onlus e volontariato e certo, è un atto, il tema è questo. Però diciamo che le banche si sono strutturate anche con delle percentuali di prezzo, diciamo, del credito imposta, in modo tale da non aggravare i contribuenti. Mi spiego meglio: se c'è un importo di 10.000 euro, il credito imposta è di 11.000 euro. Questo credito imposta va in capo alla banca. La banca paga questo credito imposta, può pagarlo anche 101-102% e quindi 102.000 euro. Capito? Quindi insomma c'è un importo che è superiore del prezzo della banca rispetto al bonifico bancario che il contribuente fa. Bene. Spesso succede così, che la banca fa il finanziamento, nel momento in cui il contribuente paga il fornitore ottiene il credito, quindi ha questo credito, il contribuente successivamente cede il credito alla banca e la banca utilizza questo credito d'imposta per ridurre le proprie tasse, però paga il credito al proprio cliente, ma non lo paga direttamente, ma va a coprire il buco che è stato fatto. Tra l'altro un ascoltatore scrive: non è necessario essere reddito zero per non poter scaricare, anche chi ha la flat tax non può scaricare alcunché. Mi viene in, certo, mente che l'ultima, certo, comunicazione appunto dell'Agenzia delle Entrate spiega che anche le partite IVA, appunto i lavoratori autonomi, proprietari, hanno, esatto, proprietari, per le spese personali possono approfittare appunto di questa. I proprietari minimi difatti non pagano IRPEF, ma pagano un'imposta sostitutiva che non sarebbe riducibile attraverso la detrazione fiscale. Quindi l'unica tecnica che hanno questi contribuenti, i proprietari minimi con partita IVA, è quella della cessione del credito oppure dello sconto in fattura. Allora, precisato questo, sono le 11.30, diamo le informazioni sui mercati finanziari e torniamo subito con voi a parlare del 110%. Deborah, le borse. Tutti questi esperti qua, ma per quale finanze? Le vostre, quelle dei ricconi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. Money. Voi due non avete capito bene cosa intende l'ascoltatore. L'ascoltatore dice che se lui ha 10.000 euro sul conto corrente, lui ha pienamente il diritto di prelevarseli tutti, se vuole, farne quello che vuole. Cosa che effettivamente il sistema non ti permette. Perché se tu vai in banca e gli dici mi prelevo 10.000 euro, ti fanno un miliardo di domande. Dai, lo sapete benissimo che funziona così. Noi non siamo tra quelli fortunati che vanno tutti i giorni, Mauro. Ah sì, aspettate. No, scusate, che hanno ragione i ragazzi, avevamo altri due WhatsApp e la pausa mi ha confuso, però voglio completare questo ragionamento con te. Normativamente, quando uno ha i soldi sul conto corrente, se li preleva, quanti ne vuole, basta che ce li abbia e se li spende. Non so se poi qualche banca può fare delle obiezioni, delle eccezioni, delle domande, forse può anche scoraggiare, dice non vada in giro con 10.000 euro, questo mi sembra una cosa ragionevole. Dal punto di vista legale non colgo però il punto di lamentela appunto degli ascoltatori. Però allora, forse non stiamo comprendendo noi. Che facciamo? Rimando i due WhatsApp che avevamo in sospeso. Ma sentiamo anche gli altri due WhatsApp. Grazie Peter, scusate. E comunque ancora una volta con il bonus 110% che verrà fatto strutturale daranno una forte mano alle grosse aziende e faranno morire praticamente i piccoli artigiani, le piccole imprese, perché pensate bene che uno può, non è che può fare tutti i lavori al 110%, perché sennò cosa guadagna, capito? Quindi ancora una volta danno una mano alle grosse aziende che possono permettersi queste cose. E basta così, l'altro hanno deciso di non metterlo. Come fai? Sbagli comunque. Se l'intervento fiscale fosse stato l'incentivo al 98% non andava bene perché non era 97%. Allora, guarda, ci sarebbe molto da chiarire, magari poi lo facciamo con Giuseppe, però vorrei dare spazio piuttosto agli ascoltatori che stanno premendo su questioni più tecniche. Non so da quale ascoltatore non abbiamo ancora, possiamo cominciare. Adesso guarda, vedo Marco al telefono, ancora non me ne ha messo in linea nessuno, perché poi gli ascoltatori si prenotano per fare la loro domanda e poi quando andiamo a richiamarli non rispondono al telefono. Forza ragazzi, dai, dateci una mano stamattina. Allora Giuseppe, restiamo su questa cosa, favorite le grandi aziende e le piccole aziende. In realtà qui c'è bisogno per il 110% di una quantità di tecnici piccoli e grandi, di una quantità di imprese piccole e grandi. Mi pare di ricordare che questo è il senso anche del tuo pezzo di questa mattina, Giuseppe. Sì, c'è bisogno assolutamente di tutti, sia lato professionisti che lato imprese. Diciamo che per rispondere all'ascoltatore possiamo fare un esempio. In caso di un lavoro condominiale si fa l'intervento trainato che potrebbe essere il rifacimento di un cappotto termico sulle parti comuni. In quel caso tutte quante le unità immobiliari, i singoli appartamenti avranno la possibilità di fare come lavoro trainato anche la sostituzione degli infissi di casa, che è il lavoro da ecobonus più classico, e in quel caso saranno incentivati al 110%, quindi si tratta di un lavoro tipicamente da piccola impresa, da piccolo installatore, quindi al di là delle valutazioni politiche, ognuno fa come vuole, in realtà il 110, se applicato in maniera complessiva, coinvolgerà davvero tutti. È di fatto è anche un incentivo che è stato pensato proprio per la ripartenza, per così dire, cioè per poter arginare gli effetti della pandemia e della crisi conseguita appunto alla pandemia. C'è un classico, e la giro subito a Luca De Stefani, esatto, che arriva via sms. Anch'io la caldaia, Luca, possiamo chiarire se la caldaia è trainante? La caldaia è il 110%. A condensazione, però, a condensazione. Scusami Deborah, hai ragione. Luca De Stefani. Sì, diciamo che la legge di conversione ha aggiunto la caldaia a condensazione anche tra gli eventi trainati, non solo per le parti comuni, ma anche per la singola unità immobiliare. Quindi se sia il condominio fa la caldaia centralizzata a condensazione, oppure la singola villa fa il cambio dell'impianto di riscaldamento o della caldaia vecchia introducendo quella a condensazione, questo è un intervento trainante, non ci sono dubbi. Il problema qual è? Che bisogna aumentare di due classi energetiche l'intero edificio, e quindi è necessario considerare anche degli interventi trainati. potrebbero essere gli infissi, oppure anche la stessa coibitazione dell'abitazione, quindi cappotto termico, magari senza i requisiti specifici degli indumenti trainanti, ma senza quindi l'utilizzo ad esempio dei materiali ecologici che sono imposti invece per avere un intervento trainante. Ma l'intervento trainato di coibitazione è sicuramente valido, come appunto l'infisso. Devo considerare tutti questi interventi che faccio, sia quelli trainanti che quelli trainanti, per aumentare le due classi energetiche l'intero edificio. Certo. Un altro grande classico, Mauro, dopo la caldaia con sensazione, sono i massimali di spesa, perché effettivamente bisogna capire appunto quanto si può arrivare a spendere per ottenere il massimo vantaggio fiscale. Rimango ancora qui con Luca De Stefani. Sì, per i massimali di spesa vi sono due tipologie di massimali di spesa per gli interventi trainanti e anche per alcuni trainati, che sono indicati in questo decreto ministeriale che sta per uscire, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Vi sono appunto quelli diciamo generali, assoluti, che ad esempio parla di 50.000 euro per singola villa o un'abitazione singola, catastata singolarmente, faccio la coibitazione, in questo caso ho 50.000 euro. Ma devo considerare anche i limiti per singolo metro quadro di coibitazione, cioè non posso spendere 20.000 euro per metro quadro di coibitazione, perché questo porterebbe a fatture false e ad un vantaggio del 110% che si vuole ovviamente evitare. Il decreto ministeriale all'allegato I prevede per tutti questi interventi, tutti quanti gli interventi trainanti e alcuni trainati appunto, degli limiti di spesa per singolo metro quadro. Ecco. Quindi bisognerà poi verificare intervento per intervento. Esatto. Deborah, abbiamo due ascoltatori, quale preferisci? Si era messo in coda per primo Fabrizio dalla provincia di Mantova, quindi ho dato una priorità proprio di questo tipo. Fabrizio. Pronto? Sì, eccoci. Prego, ci chieda. Sì, ecco. No, la mia domanda era relativa alle fatturazioni dal primo luglio, dopo il primo luglio. Avendo io un lavoro di restauro già in corso, sto convertendo alcune delle lavorazioni in base al bonus 110%, però non c'è nessuna specifica per quanto riguarda i bonifici e le fatturazioni del periodo di luglio. Certo. Luca De Stefani, come può rientrare, correggere a favore del 110%, Fabrizio? Certo. Però come metodologia di fatturazione non ci sono grosse variazioni per quanto riguarda le fatture fatte prima e fatte dopo, quindi il 110% non deve avere una descrizione particolare rispetto alle detrazioni precedenti. Diciamo che c'è per quanto riguarda lo stesso i bonifici non abbiamo grosse differenze, per le fatture non c'è nessuna differenza, per i bonifici l'unica differenza potrebbe essere quella della norma agevolativa. I bonifici che io faccio dal 1 luglio in avanti devo indicare la norma agevolativa, che è il decreto legge 34 del 19 maggio 2020, articolo 119, che è quello appunto del 110%. Quindi bonifico sempre parlante, devo indicare questa norma specifica per avere il 110, devo sempre indicare, come precedentemente, i due codici fiscali, quello del soggetto che effettua i lavori, che può detrarre, e dell'impresa invece che appunto fa i lavori effettivamente. Però l'unica problematica, scusate, è quella della classe energetica. Per ottenere il 110% è necessario presentare un APE, effettuare un APE asseverata, quindi un attestato di prestazione energetica che indichi il livello di classe energetica dell'edificio prima dell'inizio dei lavori. Se sono lavori in corso, l'inizio dei lavori è venuto prima di luglio, prima di conoscere il 110, quindi siccome questa APE non era prevista per i vecchi bonus, probabilmente non è stata fatta. Quindi la problematica principale di lavori in corso a cavallo del 1 luglio è questa, che manca prima dell'inizio dei lavori un'APE che deve essere poi confrontata con l'APE che verrà fatta alla fine degli lavori, dove appunto si vede l'aumento di due classi. Ma non si può sanarla in qualche modo facendola fare anche a lavori iniziati? No, la gente però non ha detto nulla. Ravvedimenti operosi o remissioni in bonus per ora non ne hanno parlato. Ma in realtà era necessaria per molti lavori anche in precedenza, Luca, quindi se è stata fatta un'APE precedentemente a cavallo prima dell'inizio dei lavori, sicuramente sì, magari hanno fatto un acquisto dell'abitazione qualche settimana prima dell'inizio dei lavori e quindi l'APE lì è necessaria, perché è legata al rogito naturalmente, certo. Esattamente, però per una scia, se non presente una scia o una cila, una strutturazione o una manutenzione, da quanto so io, almeno in Veneto non ci sono, c'è l'obbligo di presentarla. Fermili tutti. Allora adesso, Mauro, tu sei pronto per il momento poetico, però ti pregherei di recitarlo con il copricapo che oggi ci siamo adeguatamente così preparati e predisposti. Allora aspetta, intanto prego la regia di mandare la musica, io mi tolgo le cuffie e te lo vengo a mettere, te lo vengo a far indossare io, ecco. Torniamo alle buone abitudini del sonetto del venerdì. Ho voluto stare però non sul 110%, cara Deborah. No, vabbè, allora basta, me ne vado. Solevan le maestre ai tempi andati, nei primi dì che si tornava ai banchi, assegnar temi ormai consolidati, quali le mie vacanze, e ai fogli bianchi giungevano memorie di assolati giorni trascorsi tra conchiglie e granchi. Ora ci importa di star distanziati e che di mascherine non ci manchi la prima fornitura settembrina che tenga gli studenti intatti e puri. Lo tema si farà, le matematico, seguendo le istruzioni dell'Azzolina e grazie alle provviste dell'Arcuri che aggiunsero rotelle ed anche traffico. Potete tranquillamente andare a lavorare nei vostri uffici, ma raggiungeteli con i mezzi pubblici, non mi potete intasare di nuovo la tangenziale. Si stava così bene durante il Covid che non c'era in giro nessuno. Mi avete rotto le balle con sto traffico. Due di denari. Sul bonus del 110%, io un'osservazione, questa cosa interessa a molti, anche gente che non ha competenze tecniche in questo campo. Io vorrei capire una cosa, io come altri penso, se io penso di cedere il credito d'imposta alla banca, per esempio, cosa comporta questa cosa? Uno sconto sulla rata del prestito, non pago niente, pago il fornitore, cioè è un po' questo il senso del discorso, cioè se io penso di cedere il credito d'imposta, questa cosa mi comporta che tipi di vantaggi concreti, pratici, spicci, cioè delle cose un po' più terra a terra, perché siete tanto tecnici. Allora rifacciamo l'ABC, sentiamo quanto ne sa Giuseppe Latour rispetto a questo aspetto. Allora, caro Giuseppe, ammettiamo che tu sia l'impiegato di banca che ha la sfortuna stamattina di incontrarmi perché vengo a chiederti delle informazioni. Ho bisogno di spendere per il lavoro trainante che mi consentirà di approfittare di questo incentivo fiscale per 50.000 euro. Vengo in banca perché voglio fare la famosa cessione del credito d'imposta. Che cosa implica concretamente, se lo abbiamo capito anche questo? Quanto ne sai tu? E poi magari vado anche a Luca De Stefani. Allora, concretamente implica la possibilità di fare il lavoro a costo zero o comunque con un costo molto molto basso. Possiamo fare l'esempio pratico: per ogni 100 euro di lavori che vengono ceduti alla banca, il contribuente avrà diritto a un credito fiscale di 110 euro. Questi 110 euro non vengono pagati, diciamo così, 110 dalla banca, ma da quello che stiamo vedendo dalle prime offerte vengono pagati 102. Insomma, c'è una piccola differenza che remunera in qualche modo la banca. Che cosa succede però? Che il credito fiscale matura alla fine del cantiere, non prima. Quindi è necessario un anticipo di soldi per alimentare. È lì che voglio arrivare. Cioè, questo sogno del non pago niente mai per fare i lavori deve essere proprio cancellato dalla testa delle persone, perché è impossibile. In realtà no, perché allora stiamo al 102 che ti dicevo. Quindi abbiamo detto la banca ti riconosce questo 102. Quindi tu hai una piccola differenza ancora in positivo che puoi utilizzare per alimentare il prestito che ti serve per avviare il cantiere. Quindi in sostanza che cosa succede? La banca ti fa un prestito ponte col quale tu avvii i lavori, li porti avanti. Quando il credito arriva a maturazione, tu lo cedi alla banca e chiudi il prestito in qualche modo. Visto che il credito ti vale un po' in più del valore dei lavori, quei 2 euro in più ogni 100 euro ti possono servire grosso modo per remunerare il prestito ponte. Questo è il concetto. Quindi alla fine possiamo dire, per chiudere, che il senso è: si può fare tutto quanto o a costo zero, oppure, nella peggiore delle ipotesi, pagando molto molto poco rispetto al valore complessivo dell'intervento. Chiaramente tutto quanto si gioca sulla durata del prestito ponte. Però questo è possibile, questo è possibile se si fa l'operazione della cessione del credito d'imposta attraverso la banca, ma se nella testa delle persone c'è l'idea che, chiamando il tecnico che ti rifà gli infissi nuovi, tu non paghi niente, cioè non tiri fuori neanche 100 euro per questo lavoro perché c'è l'incentivo fiscale, questo è un messaggio corretto che passa o no? No, questo in assoluto non è un messaggio corretto. Diciamo che sarebbe possibile in teoria attraverso lo sconto in fattura, però l'opzione dello sconto in fattura gestito dalle imprese sarà probabilmente minoritaria, perché le imprese avranno meno capienza fiscale e meno liquidità per gestire questo tipo di operazioni rispetto alle banche. Dovrebbe essere uno sconto in fattura che è riferito a importi molto bassi, mi viene da pensare, Giuseppe. Altrimenti esatto, con importi esatto, alti esatto, da 110%, quelli che ti fanno guadagnare 2 classi energetiche, insomma mi sembra già più complicato. Gli ascoltatori, Umberto dalla provincia di Genova, buongiorno, perché questo è un tema importante, in quanto chiarito anche questo dall'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate, se non ho letto male. Giuseppe, Umberto, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, la mia domanda è questa: quando uno ha, come nel caso mio, 730 congiunto, i lavori fatti che l'appartamento è proprietà della moglie o del marito, la mia domanda è questa. Supponiamo che la moglie è la proprietaria. Sì. Soltanto lei può fare questa lavorazione del reddito, oppure si può ripartire questo beneficio in parti uguali o al limite al 100% sul marito che fa la dichiarazione congiunta, che la moglie potrebbe essere parzialmente coperta per fare questi sgravi fiscali. Sì, o addirittura fare proprietaria la moglie, però paga la fattura al marito, per cui è come se fosse, diciamo, poi gli sgravi vanno al 100% al marito. Non so se sono stato chiaro. Buongiorno. Allora, sì, il senso di tutto, poi alla fine mi sembra, Luca De Stefani, è: vale il 730 che facciamo congiunto o vale la proprietà dell'immobile per decidere come si deve ripartire questo 110%? Vale la proprietà dell'immobile e chi fa i bonifici. Quindi, se ad esempio fa il bonifico solamente la moglie e non rileva il fatto che fanno il 730 congiunto, nel senso che la detrazione è completamente della moglie e quindi viene in parte persa se la moglie non è capiente, perché con il 730 congiunto comunque le detrazioni della moglie vanno in capo alla moglie e basta, non possono essere trasferite al marito. Invece la soluzione appunto è quella di effettuare dei bonifici separati. Se c'è una fattura di 10.000 euro, fare metà alla moglie, metà al marito, visto che è convivente, se appunto convivente nell'abitazione dove vengono fatti i lavori prima dell'inizio dei lavori, anche il marito che non è proprietario dell'immobile può essere un soggetto potenzialmente beneficiario del 110%, l'importante è che faccia lui il bonifico parlante relativo alla spesa che vuole lui detrarre nella sua Salvatore da Torino, andiamo a Torino adesso per l'ultima domanda di oggi. Salvatore, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Senta, la mia domanda a voi è questa: la fase preliminare per poter capire, per portare avanti un progetto, è quella di chiamare un tecnico che venga a fare un sopralluogo e inizia a studiare la situazione. Allora, potrebbe darsi, da quello che ho sentito dire in giro, che l'immobile non abbia tutte le regolarità formali edilizie, perché in Italia si sa che certe cose capitano. In caso di difformità, se si andasse avanti con la procedura e l'Agenzia delle Entrate un domani dovesse contestare questa situazione, che cosa succede? A chi ritorna indietro il cerino acceso per scottarsi? Non so se siamo in grado, De Stefani, di prefigurare questa condizione, però è vero, allora, che possono esserci dei disordini catastali, diciamo così. Certo, la detrazione non dovrebbe aspettare. Se invece viene ceduto il credito, chi ha ricevuto il credito è salvo, perché comunque è in buona fede e ha ricevuto un credito e l'ha anche pagato, e in quanto la norma prevede questo, mentre l'Agenzia delle Entrate chiederà le maggiori detrazioni detratte da parte del cessionario le chiederà al cedente, al contribuente, che ha invece detratto delle spese che non poteva detrarre. E quindi ci sarà al massimo una correzione. Però uno potrebbe, come dire, retrocedere dal 110%, che so, al bonus 60, del 50%. No, ma comunque no. Cioè, diciamo che non è possibile. No. Quindi si perdono le detrazioni di cui si è usufruito e bisogna, diciamo, versare il conguaglio dell'IRPEF che non abbiamo versato. Questo è il brutale senso della risposta che possiamo dare all'ascoltatore. E allora qua mi pare di capire che le domande che stanno arrivando sono tantissime, però insomma c'è chi ci fa anche una descrizione piuttosto accurata dei lavori che sta facendo a casa, e direi che possiamo rinviare di nuovo Mauro alle nostre guide, che sono piuttosto dettagliate anche sui termini, i tempi di questi interventi e soprattutto sul complicato meccanismo di cessione del credito d'imposta alla banca, che insomma scopro stamattina che effettivamente consentirebbe in linea teorica di non farci tirare fuori un euro per i lavori che dobbiamo fare, ma insomma almeno per un prestito ponte, come ci hanno spiegato Giuseppe Latour, il collega Giuseppe Latour del Sole 24 Ore, e Luca De Stefani, esperto, oramai voce amica, devo dire, anche qui a Radio 24 per quanto riguarda il 110%. Io ringrazio entrambi. Esatto. Deborah, noi torniamo lunedì. Ma la facciamo la rogna dei contanti lunedì? Dai, ma guarda, facciamo infervorare gli ascoltatori, che più sono nervosi, più ci vivacizzano il programma. Ma sì, dai, mettiamola in pista per lunedì. Intanto a tutti, buon fine settimana.